Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come contattarci? Beh, il numero per i vostri SMS e per i vostri messaggi WhatsApp è 349-238-6666, 349-238-6666, ma c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag che è cancelletto ISDV come iniziali di Il Sabato del Villaggio. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora del Sabato del Villaggio, l'appuntamento con il gastronauta, questa volta tutti a Firenze. Con Franco D'Assisti, tutti i film in uscita del weekend, e a tenerci compagnia però questo pomeriggio come filo rosso la televisione. Con Enrico Pagliarini parleremo delle nuove tecnologie in questo ambito, ma partiamo dal nostro caro vecchio telecomando. In questo sabato del villaggio sarà un po' la televisione a tenerci compagnia. Parleremo tanto di televisione in tante declinazioni, in tanti momenti, in tanti modi diversi. Vedrete in quanti temi entra. Ma intanto andiamo proprio ad accendere il televisore. No, non vi sto invitando ad alzarvi dalla radio, non sia mai. Ma in questo periodo sono successe tante cose nel nostro telecomando. Io stessa, che guardo tantissima TV, ogni tanto mi perdo, cioè mi dimentico dove stanno i canali, come si chiamano i canali, come sono cambiati i canali, perché questi canali in quest'anno sono cambiati tanto. Allora, per darci dei consigli, non per gli acquisti ma per il telecomando, abbiamo il super esperto di telecomunicazioni del Sole 24 Ore, Andrea Biondi. Ciao Andrea! Ciao, ciao, buongiorno. Ti ho rapito dalla tua scrivania al quotidiano. Andrea, allora, mentre io vado a vedere le cose divertenti, vado a seguire le cose, lui è uno studioso, sa tutto di numeri, sa tutto. Ma quando... Un secchione. Un secchione, bello, bello, bellissimo essere un po' secchioni. Andrea, devi essere la nostra bussola. Allora, telecomando. Il telecomando, quello normale, quello ormai dire digitale terrestre è quasi superfluo, perché quello abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, direi che stiamo tranquilli, sono quelli di sempre. E poi cos'è successo? Bah, diciamo che poi alla fine, anche con l'8 e il 9, bene o male, adesso si inizia a stare tranquilli. Adesso si inizia a stare tranquilli. Si inizia a stare tranquilli, nel senso che sono venuti... È cambiato tanto in quest'anno, in quest'ultimo anno, per quanto riguarda il consumo televisivo, i canali e via dicendo. Sicuramente bisogna fare un passaggio importante, considerare anche quello che è successo su una piattaforma che è utilizzata da 4 milioni e 800 mila famiglie, che è quella Sky. Però i canali 104, 105, 106 che venivano utilizzati per i canali su cui venivano trasmessi, certo, Rete 4, Canale 5, Italia 1, sono cambiati, nel senso che Mediaset ha deciso di oscurare quei canali e adesso ci sono degli altri canali, c'è Rai 4 e c'è Sky 1, e quindi lì come dire, in un certo qual modo è già cambiata qualcosa e di molto importante, certo. Perché quello è. Dopodiché andiamo alla televisione, il cosiddetto digitale terrestre. Cioè chiunque sta a casa non ha un abbonamento a Sky, non ha un abbonamento a Mediaset Premium. Dall'1 al 7 sappiamo quel che c'è. Sappiamo quello che c'era prima c'era. Quello che c'era prima c'è. Che cosa succede? All'8 c'era MTV. Uh-huh. Ora MTV non c'è più, c'è TV8. TV8 che è un nuovo canale di Sky. Uh-huh. Che... adesso, insomma, ha ascolti in grossa crescita e adesso quell'MTV di Viacom è rimasto solo, diciamo, come marchio, ma al canale 8 c'è TV8. Un canale in cui Sky ha iniziato a proporre molto della sua, a mettere molto della sua proposta, portandola in chiaro, entrando in chiara competizione chiaramente con Mediaset sul tema del digitale terrestre, sul tema della pubblicità. Tra l'altro anticipo che parleremo più tardi, tra un'oretta circa, di Italia's Got Talent, perché abbiamo incontrato i protagonisti di Italia's Got Talent. Fino all'anno scorso si vedeva solo per chi era abbonato a Sky, adesso arriverà su TV8, il che vuol dire che TV8 diventa davvero un concorrente delle altre TV. Ma allora, che i canali 8 e 9, parleremo fra poco, sarebbero diventati il vero terreno di battaglia della TV, questo lo si capiva da tempo, lo si capiva dall'inizio dell'anno scorso, quando ci fu la prima operazione. La prima operazione fu appunto quella che ha portato l'allora DJ TV del gruppo L'Espresso, uh-huh, l'ha portato nel novero di Discovery, il gruppo americano che ha acquistato appunto il canale. E adesso quel canale, che per un lungo periodo di tempo è rimasto con il marchio DJ TV, ora è il canale 9, in cui il DJ TV si vede all'interno della O, il marchietto, però il canale 9. Quindi probabilmente, così non lo dico, grande affetto per il marchio DJ, ma probabilmente sparirà, sarà solo 9 tra un po', non lo so. Per il momento quel marchio 9, diciamo, con il DJ nella O è segnato lì. Ma questo a significare che questi due canali, 8 e 9, che sono entrati nella scuderia di due colossi del mercato televisivo, per l'appunto Sky, che ha fatto l'affare con Viacom, e Discovery, che ha preso dal gruppo L'Espresso, questi due canali sicuramente sono canali che vorranno dire la loro. Chiaramente hanno dei prodotti che molto cercano di avvicinarsi alla dinamica cambiata dei gusti delle persone. Il pubblico stesso continuerà a cambiare, cioè quel pubblico incollato davanti alla TV è un pubblico che sempre di più fa uso del tablet, fa uso del cosiddetto second screen, e quindi bisogna pensare anche a delle offerte tarate proprio per un nuovo genere di fruizione della TV. Quindi dici che magari questi canali più nuovi faranno più in fretta ad adeguarsi dei canali più tradizionali? I canali tradizionali non bisogna dimenticare che sono quelli dove si fanno le grandi audience, sia i canali Rai sia i canali Mediaset. Non dimentichiamo quello che è successo con il Festival di Sanremo quest'anno, certo. Quindi, ma anche, diciamo, con le prime serate di Mediaset, con quello che succede con la fiction sulla Rai, Montalbano, i record di Montalbano incredibili e quant'altro. Quindi quel consumo lì è consolidato. Questi tipi di TV cercano in qualche modo di catturare un pubblico che altrimenti potrebbe piano piano scivolare verso il non consumo di televisione, perché alla fine noi tutti pensiamo che le TV concorrano fra di loro. Le TV concorrono fra di loro, però le TV, come la stampa, come le radio, concorrono tutti con i cosiddetti colossi del web, che sono quelli che attraverso video, attraverso i social, hanno delle proposte che tendono a catturare il tempo del pubblico, e poi alla fine non c'è null'altro che quello è, come dire, il fattore finale, il tempo del pubblico, il tempo che il pubblico passa davanti alla televisione. E quindi, dicevo, TV8 e 9 sicuramente saranno dei canali che cercheranno e vorranno dire la loro, soprattutto, diciamo, in questa seconda parte dell'anno e magari anche all'inizio dell'anno prossimo. Ti chiedo anche se ci sono dei nuovi canali interessanti, perché si sono affacciate tante novità in questo periodo. Beh sì, uno diciamo che è stato anche frutto un po' di tutto il meccanismo che ha portato a questi stravolgimenti nel telecomando è la nascita di Paramount Channel sul canale 27. 27 che era prima quello di Sky TG24, no? Esatto, Sky TG24, il quale è andato al canale 50. Perché è andato al canale 50? Perché lì ci sono i canali di news. Io immagino che la gente stia prendendo appunti perché è complicatissimo. E chi c'era al canale 50? C'era la F. Bravissima, sei informatissima. La F che aveva la TV del gruppo Feltrinelli che aveva un nocciolo duro di ascoltatori molto affezionati e che adesso per poter vedere la F dovranno necessariamente abbonarsi a Sky, perché questo canale è in esclusiva sulla piattaforma Sky, la quale Sky ha pensato con FTV di costituire un pacchetto, un'offerta culturale, artistica particolare insieme agli altri suoi canali. Paramount Channel, dicevamo, canale di Viacom, il colosso... Cioè quello di MTV. Quello di MTV, okay. Esatto, che ha anche degli altri canali in Italia, in verità. E, allora, Paramount Channel è un canale che ha la sua offerta core e l'offerta di film e serie TV. Film e serie TV che sono per l'appunto, come dire, il punto sul quale sta combattendo e concorrendo il mercato televisivo in questo momento. Sembra essere l'offerta veramente più richiesta dal pubblico, tant'è che anche le piattaforme pay, sia Sky sia Mediaset Premium, si stanno molto allineando su questo. Sky, per dire, ha creato un prodotto che si chiama Sky Box Sets. Chi fosse di Milano in questo periodo vede la pubblicità in tutte le stazioni della metro tappezzate di questo. Dappertutto vede quella pubblicità e un'altra pubblicità che è quella di Mediaset Premium per Mr. Robot, la serie evento dell'anno che appunto è in esclusiva su Premium. Allora, Skybox Set è un meccanismo che permette a coloro i quali sono abbonati MySky, quindi con un decoder connesso, di poter avere a disposizione le serie dall'inizio alla fine, quindi un cofanetto per poter fare le cosiddette maratone TV. Mentre invece Mr. Robot appunto è l'offerta la proposta principale da questo punto di vista di Mediaset Premium, che bisogna dire la verità rispetto a Sky è meno connotata riguardo a serie TV, riguardo a film. Mediaset ha molto puntato sul prodotto sportivo, sulla Champions League, mentre invece Sky da tempo ha incominciato a pensare a questo ambito come un ambito molto interessante per il pubblico, tant'è che c'è un canale Sky Atlantic che è completamente dedicato. E questa insomma è un po' la situazione, una situazione in cui chiaramente, come dire, l'ingresso di questi due colossi, Sky e Discovery, nell'ambito della TV generalista in qualche modo incuriosisce, perché bisognerà vedere l'effetto sulle dinamiche pubblicitarie, vedere l'effetto sul pubblico, quanto pubblico potrà spostare, come dire, salire nello share. Ogni punto di share sono 30 milioni di pubblicità più o meno, si dice, quindi ogni punto di share 30 milioni di pubblicità non è male come conto. Ti chiedo un'ultima cosa, Andrea, secondo te cosa potrà ancora succedere in questo 2016? Non ti chiedo di fare una previsione da mago di Arcella, ma secondo i segnali in questo periodo cosa potrebbe succedere ancora? Ma no, anche perché io, essendo secchione, come dire, ho poca propensione a fare le previsioni, insomma. Ma, più proiezioni che previsioni. Bisognerà vedere, qualche cosa ci sarà, perché ci sono dei canali che si stanno anche liberando, perché ci sono delle realtà in difficoltà. Guardo con molta attenzione a Viacom, guardo con molta attenzione anche a Mediaset. Ci sarà una attenzione particolare alla qualità con l'avvento dell'Ultra HD, una cosa che sarà possibile solo sul satellite, quindi diciamo sugli abbonati TVSat, per dire, che sono quelli che hanno la possibilità di vedere i canali sul satellite. Però bisognerà fare attenzione anche a quello che succederà nell'ambito delle TV locali, perché quello è un settore che sta risentendo molto della crisi, sta risentendo molto di alcune scelte, di alcune necessità imposte dalla legge. C'è un regolamento che addirittura parla della necessità di riassegnare i canali dal 71 al 96, che sono proprio i canali assegnati alle TV locali, un regolamento che insomma adesso però è ancora in mezzo a delle vicissitudini burocratiche e a tribunale, insomma, però bisognerà vedere anche come saranno le scelte politiche su questo fronte. Allora Andrea, quando ci sono le novità ti torno a rapire la scrivania al Sole 24 Ore, scendi in radio al primo piano a trovarci e ci racconti un po' di novità su come sta cambiando la televisione che noi vediamo accendendo la sera quando siamo stanchi, eppure quante cose ci sono dietro. Con molto piacere, nel frattempo studierò. Studia. Grazie ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore, ciao Andrea. Grazie a voi, arrivederci. Il sabato del villaggio. E come sempre a quest'ora il sabato del villaggio è il momento del nostro gastronauta, lo accogliamo così. Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ha amato di più è stata l'aria. Io ho sempre avuto una passione immensa per Ivan Graziani, un grande amore, e quando il nostro gastronauta mi ha detto sarò a Firenze, non ho potuto fare a meno di accoglierlo con Ivan Graziani, con questa splendida Firenze canzone triste. Però non siamo tristi, penso che, insomma, credo che il nostro gastronauta sia molto felice di essere a Firenze oggi. Sì. Ciao Davide! Ciao, anche perché Firenze è invasa da 150 eventi in 3 giorni. Anche perché, allora, Milano primavera, immagino Firenze splendore. Sì, no, Firenze è così, c'è un pallido sole, però pallido non, sole. Non è brutto, si sta bene, l'aria di Firenze, come diceva Ivan Graziani. E a Firenze c'è Fuori di Taste, e devo spiegare che esiste una manifestazione a Firenze che raccoglie il meglio della gastronomia italiana che si chiama Taste. E fuori, dalla Leopolda, perché è l'iniziativa che ha lanciato la Leopolda questa, 11 anni fa, avviene che in tutte le parti della città ci siano degli eventi gastronomici ma di altissimo livello, e quindi è stata chiamata Fuori di Taste, e ti faccio degli esempi. Il Bistrò del Fiorista, ecco cos'è il Bistrò del Fiorista, è praticamente un loft che è stato trasformato in un bistrò dove vengono serviti da degustare tutta una serie di piatti inusuali, ma ci sono anche, oltre i formaggi, ci sono dei fiori freschi. Oppure in una chiesa anglicana sconsacrata c'è un'iniziativa che si chiama Da Pescatore, come si dice alla Toscana, casa di cucina, e dentro cosa avviene? Avviene un'immersione verticale nel baccalà. Tu pensa, cioè, 5 qualità di baccalà vengono diciamo degustate, una diversa dall'altra, e vengono annaffiate con dei vini bianchi friulani. Questa è un'operazione che fa un grande importatore di baccalà da tutto il mondo, che si chiama Schooner, e assieme appunto ai vini friulani. Oppure, e che cavolo, sai, i toscani sono molto sì? spiritosi, come sempre. E che cavolo cos'è? È un'iniziativa che avviene nell'osteria del caffè italiano, dove dentro si mangiano tutta una serie di piatti a base di cavolo nero. Il cavolo nero è fondamentale, ad esempio, per il minestrone, la ribollita. Quindi diciamo che nasce in Toscana e bisogna che prenda una botta di freddo, perché in quel modo è croccante. Quest'anno, come si dice, delle verze dalle mie parti, sì, per la cassola, che deve aver preso un po' di freddo. Sì, però non sono nere quelle della cassola. No, della le nostre cassola. No. Si può usare queste invece proprio, ma non solo in Toscana, ormai sul minestrone, perché quelle nere danno, il cavolo nero dà molto sapore. E però quest'anno il freddo non c'è stato, quindi non si può avere un cavolo nero straordinario per i raffinati. Oppure ancora menù rivoluzione del tartufo. All'Ora d'Aria, un ristorante, pensate, si chiama Ora d'Aria perché è vicino al carcere, era vicino al carcere, ci sono delle tapas, ma qui sono a base di tartufo, quindi non sono le tapas, quelle diciamo così da 4 soldi che si bevono molte volte quando ci sono gli aperitivi in giro, che c'è pasta rifatta. E poi ancora, c'è una verticale. Cos'è una verticale? Bisogna spiegarlo, però, se ti permetti. Sì. Verticale, che sono quando tante annate sono messe in fila per essere degustate, o tante tipologie di un prodotto. Ebbene, ci sarà una grande degustazione di parmigiano reggiano. Si partirà da 24 mesi e si arriverà a 48 mesi, perché ci sono alcuni produttori del parmigiano reggiano che addirittura arrivano a 100-120 mesi. Quindi è, diciamo, un po' solamente per appassionati il discorso di andare ad assaggiare tutte queste cose, però attirano da tutta Italia, perché da tutta Italia per fuori di testa arrivano tantissime persone. Oppure potrei continuare ancora, che c'è al locale, che si chiama così questo locale, uovo alla Parisi, un uovo molto particolare che viene cotto con una temperatura particolare, c'è un aperitivo a base con questo. Oppure ancora una degustazione di prodotti che sono a base di colature e di alici. La colatura di alici è questa specialità di Cetara, un paesino, diciamo, nella costiera, fantastico, dove forse in Italia è l'unico posto dove è nata la colatura, che tra l'altro è un prodotto di denominazione di origine. E poi ci sono altre tantissime altre cose, come un ristorante che si chiama Quinoa, dove ci sono pranzi, c'era una volta il pranzo della nonna. Quindi poi ancora c'è un mercato di fresco, Ortobello a chilometro zero. Ma i nomi sono tutti molto carini, devo dire. Sì, sono molto carini. Sicuramente i toscani su questo sono molto bravi, specialmente i produttori di questi prodotti, perché sono loro un po' gli inventori di questa cosa. Poi Davide, però direi che potremmo anche cominciare a dare qualche indirizzo per chi è a Firenze, per capire un po' dove si può andare a mangiare, perché ecco, magari qualcuno allora non c'è questo fine settimana, ma si sta preparando per i prossimi. Esattamente. Ma allora io questa volta voglio fare un itinerario inusuale. Inusuale in che senso? Che Firenze è notoriamente una città turistica. E quindi quando si viene a Firenze molti preferiscono mangiare la sera, perché durante la giornata sono in giro per la città. Mi hanno detto ad esempio che c'è questo museo del Duomo, che mi hanno detto che è un fatto unico, straordinario, e quindi lo consiglio. Ma è un fatto inusuale, per cui si mangia un panino. E allora a Firenze, forse per questa sua vocazione turistica negli anni, sono nate veramente delle paninoteche molto particolari e direi gourmet proprio, dove fantastico. Non si mangia, sì, si può mangiare il solito panino alla mortadella, per carità, che è sempre una gustosità, però si può mangiare anche di meglio. Allora, innanzitutto, ormai è noto, uno dei templi turistici di Firenze sono i carrettini, dove si mangia il panino al lampredotto. Certo. Allora, spieghiamo subito cos'è il lampredotto, perché tutti pensano che sia trippa. No, il lampredotto è l'ultima parte dell'intestino, del vitello, quindi è una parte diversa, non è proprio la trippa. Il lampredotto è, appunto, viene servito in panino, e ci sono questi tre carrettini storici, speriamo che rimangano, perché piano piano sono scomparsi, erano tantissimi, e sono in posti veramente molto particolari. Uno è in Piazza del Porcellino, è noto, dove tutti i turisti o tutti quelli che vengono a Firenze una volta vanno, perché c'è questo mercato proprio in pieno centro, in questo posto molto particolare. Poi ce ne sono altri due sparsi per la città, uno in Via dei Macci, che è un quartiere molto, molto popolare, dietro a un mercatino, anche questo interessante. Poi c'è il mercato di San Lorenzo, che è notissimo, storico, bellissimo, dove dentro c'è un venditore di lampredotto, del panino lampredotto, che si chiama Nerbone, altro, diciamo, personaggio storico del turismo fiorentino. Poi ce n'è un altro ancora in piazza Beccaria. Quindi sono questi tre carrettini più questo posto dentro al mercato che offrono questo panino. Però non tutti vogliono mangiare questo panino, allora io li porto anche in centro, li porto in Via dei Tavolini, alla cantina da Verrazzano. Verrazzano è un produttore di vino e ha organizzato da anni un forno dove si mangia della focaccia veramente eccellente, e ci sono 20 maniere di questa focaccia, diciamo, chi la vuole ricca. Quindi c'è la focaccia al formaggio e piselli, che è una delle, secondo me, delle varietà più interessanti. Poi c'è anche mozzarella e peperoni arrostiti, e poi ce ne sono tante altre. Uno lì si può sbizzarrire anche spendendo il giusto. E poi ancora possiamo andare dall'antico vinaio. L'antico vinaio è anche questo in una via storica, e il locale più cliccato che ci sia al mondo di TripAdvisor. Si parla di 10.000 click, quindi infatti c'è una fila sempre di turisti enormi. E poi ancora si può andare dai fratellini, anche questi fanno porchetta, fanno tonno e peperoni, salsa verde, tacchino o mortadella. E poi ce n'è uno gourmet veramente riconosciuto in giro per l'Italia, autore anche di libri, che si chiama Ino, e questo è vicino a Ponte Vecchio, dove qui si mangiano veramente dei panini super che si può mangiare al culatello e tante altre specialità. Beh, straordinario, fantastico, anche perché poi se noi mangiamo il panino di giorno, lo smaltiamo già, poi girando come i turisti mi sembra perfetto. Esatto, ma ti voglio dire un'ultima cosa, la bistecca, perché voglio dare anche un contentino a chi viene a Firenze. Firenze è molto così indicata per la bistecca. Allora è sempre più difficile trovare la bistecca a Firenze, perché ormai i ristoratori hanno un po' perso la testa, vogliono fare i piattini, vogliono fare il sushi, vogliono fare tutte queste cose. Allora io do sì, ci sono le vecchie trattorie, tipo Buca dell'Orfo, Buca Latini, c'è il Troia, però un indirizzo che voglio dare è Oliviero. Oliviero è un locale che non è, diciamo, non è la Buca, quella dove diciamo si va diretti a Firenze. Certo. È un locale interessante, si mangiano anche altre cose, ma la specialità è la bistecca. Quindi chi vuole venire a Firenze, vuole andare a mangiare la bistecca, questo è il posto giusto, oltre gli altri che ho elencato, che sono veramente storici. Mi sembra perfetto per un bel weekend, poi Firenze in primavera, mi hai fatto un po' sognare, Davide. Devo dire che stanno nascendo locali e localini un po' dappertutto in queste piazze, piazzette, questi angoli bellissimi, bellissimi di Firenze, quindi veramente gradevole, poi è sempre stata una città gradevolissima, quindi vale la pena di fare un weekend, magari cominciare ora e ancora per 2 mesi, magari il tempo migliora e quindi si può stare all'aperto, magari senza cappotto, e si può andare in giro anche con la giacca e una sciarpa. Che bel sogno di primavera ci hai regalato, Davide, sono molto contenta di questo itinerario strano, ma assolutamente da prendere in considerazione, perché davvero quando si va in giro per le città si punta sempre alla cena, ma non si può buttare via l'occasione di mangiare qualcosa di gradevole, anche se magari di più veloce a pranzo. Davide, l'appuntamento al prossimo sabato del villaggio. Okay, al sabato ciao, prossimo presto. Ciao Davide, grazie al nostro gastronauta Davide Paolini. Noi abbiamo una brevissima pausa, ma andiamo a chiamare Enrico Pagliarini, che è in redazione, lo portiamo in studio perché abbiamo ancora da aprire con lui la pagina di tecnologia. Il sabato del villaggio. E ci siamo ancora col sabato del villaggio, vi ho detto, questo pomeriggio parleremo molto di televisione, sarà un po' il nostro filo rosso, e per introdurre Enrico Pagliarini abbiamo scelto questa. Enrico Pagliarini, ma anche per salutare un altro grande del rock in quest'anno difficile, ci ha lasciato la scomparsa di Keith Emerson. Questa era in realtà un antico classico americano, Honky Tonky Train Blues, ma questa è la versione degli Emerson, Lake e Palmer, era la più famosa sicuramente in Italia, e anche proprio per un programma televisivo, perché era stata negli anni 70-80, dal 76 in poi, la sigla di quello straordinario programma televisivo che si chiamava Odeon, tutto quanto fa spettacolo, Brando Giordani, Emilio Ravel, bellissimo, grande storia della televisione italiana. Ma con Enrico Pagliarini, buongiorno Enrico. Buongiorno. In studio con noi, si sta distraendo. Sì, stavo distraendo perché sto installando, un'app. Adesso me stavo lo racconto, vabbè, allora, no, allora... No, non è quella che ti consiglio oggi, che quella l'ho già provata. Ok, con Enrico Pagliarini non parliamo di televisione, ma parliamo di, televisori, perché spesso ancora qualcuno si sbaglia, accendo la televisione. No, infatti, oppure ho comprato una televisione, cioè hai comprato Mediaset. Allora, abbiamo parlato spesso di televisori in questi 2 anni del sabato del villaggio. Ogni tanto vale la pena tornare sull'argomento, perché è un settore che comunque si evolve, ogni tanto ha delle novità. Enrico Pagliarista, non capisco cosa sta facendo, beh, ce lo racconterà tra poco. Facendo delle prove. Vabbè, che cosa ci puoi dire di nuovo più dei televisori. Dunque, allora dico subito una cosa che di solito si dice alla fine, però alla fine non c'è mai tempo, quindi non si dice mai. Mm-hmm. Allora, la cosa forse più importante, non sto scherzando, la cosa più importante quando si acquista un televisore è la distanza di visione. Ah, questo è un gran cavallo di battaglia di Enrico Pagliarini. Allora, è un cavallo di battaglia, io ho imparato da Gianfranco Giardina che lo dice spesso. Salutiamolo, bravissimo Gianfranco. Allora, misurate la stanza, misurate soprattutto la distanza alla quale guarderete il televisore. Se avete il divano, oppure se lo guardate da una poltrona, una sedia, quello che volete, o se state in piedi, prendete misura e fate un calcolo. Allora, il televisore deve essere grande. Deve essere grande, non si deve prendere un televisorino piccolo, piccolo, piccolo. Non si vede niente, non si riescono a leggere nemmeno le scritte. Allora, 50 pollici va visto ad una distanza di 2,5 metri, che è una distanza abbastanza comune. E direi che nelle tante case degli italiani ci sono televisori piccoli, piccoli. E questo non è un incentivo a spendere un sacco di soldi, perché poi tanto oramai il taglio medio fino a qualche anno fa era un 42 pollici. Sì. Oggi diventa il taglio più popolare è 50 pollici. Incredibile, io il TV Color l'ho comprato 6 anni fa quando mi sono trasferita ed era grandissimo, era 40. Sì, no, no, da buttar via. No, dai. Un giorno vai all'isola ecologica butti nel container dei televisori. Sono contraria a questa obsolescenza oppure rapida. Lo vendi su internet usato. Ecco. Però il problema è che lo vendi a 50 euro. Comunque questo è molto importante. Ci sono anche siti internet dove si può fare, c'è il misuratore automatico. Cioè tu gli dici io sto a 2 metri, che TV devo prendere? Sì. E ti dice devi prendere un 50 pollici. Una tabella sì, scientifica. Sì, ma è bellissimo. Bello. Dopodiché le cose diventano molto complicate perché un'altra delle caratteristiche che dobbiamo metterci sul taccuino per prendere la decisione è che tecnologia dello schermo prendo, compro. Allora, ci sono due mondi sostanzialmente. Quello emergente e che sarà la TV del futuro, non c'è dubbio, che è l'OLED. OLED. L'altro mondo è il classico mondo che conosciamo già da anni, cioè LCD LED. Che è la stessa roba, non è che i LED sono un'altra cosa rispetto agli LCD, gli LCD retroilluminati a LED e oggi normalmente si chiamano LED. Allora, io, ma non solo io, consiglio OLED. Allora, è vero che oggi OLED è un prodotto che ha solo un produttore, cioè LG, anche se stanno per arrivare sul mercato Panasonic e ci sono notizie in Corea che dicono che molto presto, entro pochissime settimane, Samsung deciderà quando cominciare la produzione in massa anche di OLED, quindi anche gli altri produttori stanno cominciando a proporre questa tecnologia, però è vero che costano ancora un po' di soldi. Perché cioè tipo? Attorno ai 2000 euro. Ah. Poco meno, però insomma comunque capisco che è una spesa. Però teniamo anche conto che la vita media di un televisore è di 8-10 anni. Quindi quando noi andiamo a comprare una cosa del genere, dobbiamo anche metterci in questa ottica, cioè compriamo un prodotto che ha una vita lunga. Infatti lo dicevo, sei lunga. Anni fa io l'ho comprato, ma spero che duri ancora fra un pochino. Tra 2 anni lo butti via. Tra 2 anni. Io lo butterei via adesso, però insomma. Questa è un'altra scelta. La visione migliore ce l'abbiamo con gli OLED, però è ovvio che un buon prodotto LCD LED ci offre una buona visione. A me non piace molto come pasta d'immagine, però uno poi si accontenta. Posso chiederti una cosa? Ma è vero che quando vai a vedere i televisori grandi magazzini ti fanno vedere sempre, non so, i Blu-ray o i DVD e tu invece dovresti chiedere di vedere la TV normale? Esatto, scusi, mi mette sul digitale terrestre? Non abbiamo il collegamento. Ma poi c'è anche un'altra caratteristica. Allora, i televisori hanno, tutti i televisori hanno un'impostazione da negozio con immagini più brillanti perché ti prendono... E cosa che poi quando invece siamo a casa dovresti chiedere di vederlo con la visione normale. Certo. Ah. E poi appunto uno dovrebbe appunto chiedere di fare una carrellata, vedere, non so, il satellite, un Blu-ray, la TV digitale terrestre normale, però purtroppo questo è un altro dei problemi, non viene fatto. Allora, tecnologia quindi con cui è costruito il pannello, cioè proprio il display. E poi, ecco, c'è il grande mondo della risoluzione, cioè quanti pixel formano l'immagine. Okay. E qui due mondi, la stragrande maggioranza dei televisori oggi sono 2K o HD, ho detto anche Full HD, ma sì, sta crescendo tutto quel mondo che conosciamo come 4K o Ultra HD. Okay. E qui il mercato sta offrendo prodotti sempre più belli, sofisticati, e sta crescendo questa parte del mercato. Ma cresce anche l'offerta? Ecco, a questo punto ci dobbiamo fare la domanda: ma io che cosa guardo? Allora, se guardo il digitale terrestre, dove i canali in HD sono pochissimi, la Rai ne ha uno, il 501, ci sono tre canali di Mediaset che non sono nemmeno un vero HD, però diciamo consideriamoli un HD, cioè, l'offerta è scarsissima, e nel futuro non possiamo pensare che ci sarà moltissima offerta di segnali e di contenuti in alta definizione. Okay. Sul digitale terrestre, quindi diciamo che se uno guarda solo il digitale terrestre si può accontentare tranquillamente di un televisore HD senza andare troppo, senza spendere tanti soldi. A proposito di sorgenti, salendo anche come qualità e come quantità d'offerta, c'è il satellite. Allora, il satellite ha sostanzialmente esiste la possibilità anche di vedere canali gratuiti via, certo, satellite, però certo, c'è il mondo di Sky. Sì. E il mondo, so che ne avete parlato, quello di cui abbiamo accennato con Andrea Biondi. Sì, un mondo che sta crescendo e diventa sempre più interessante, che è TVSAT. Sì, ce l'ha proprio detto Andrea poco fa. Di cosa si tratta? TVSAT è una piattaforma gratuita, bisogna solo comprare un decoder o una cam, che è un piccolo strumento che va inserito nel televisore. Mm-hmm. All'interno del decoder per vedere TVSAT o all'interno di questa cam va inserita una schedina che ci abilita al mondo di TVSAT, però non c'è nessun abbonamento da pagare, quindi è gratuito. Attualmente ha 69 canali, 9 di questi sono già in alta definizione e stanno crescendo. Bisogna avere la parabola. Sì. Però il satellite a cui punta la parabola è sempre quello di Sky, quindi okay, se uno o ha già avuto Sky o ha anche Sky, perché uno può avere anche le due piattaforme, non è vietato. Quindi satellite da tenere in considerazione, sempre tenendo conto quello che dicevamo prima, cioè compro un televisore, ma che cosa ci vedo? Uh-huh. Perché ad esempio se uno compra oggi un 4K, gode dei benefici del 4K se vede contenuti in 4K, certo, se no non serve, certo, a niente. Okay? Perché se compro una macchina che va al 300 all'ora, ma la uso a 100 all'ora, sì, prendo la Panda e sono a posto. Giusto? Certo. Adesso, cosa un po' più complicata se vogliamo, però. Poi Blu-ray. Cioè potrei collegare, se io sono un amante dei film e noleggio i dischi, potrei collegare un Blu-ray, quindi vedere in alta definizione. Perfetto. Molto molto bello, un'immagine meravigliosa. Oggi siamo in attesa, diciamo entro poche settimane escono sul mercato due prodotti, uno di Samsung e l'altro di Panasonic, uh-huh, che sono nuovi Blu-ray, si chiamano Blu-ray Ultra HD. Cioè sono i nuovi Blu-ray che ci permettono di vedere contenuti in 4K. Okay. Quindi a quel punto uno dice, io ho il televisore 4K, ci collego un bel lettore Blu-ray Ultra HD, mi prendo i dischi a noleggio, ce ne saranno pochi all'inizio, però l'alleanza dei produttori dice che entro la fine di quest'anno ci saranno 100 titoli a disposizione, e quindi posso godere del 4K. Poi c'è internet. Okay. Da cui arrivano un sacco di contenuti. Allora, internet in due modalità: se compriamo un televisore nuovo o abbiamo un televisore di pochi anni, non molto vecchio, molto probabilmente questo televisore ha tutta la parte smart TV. Certo. Quindi ci possiamo mettere le applicazioni, quindi possiamo prendere contenuti direttamente da internet, cioè collegando il televisore a internet. Se non abbiamo la smart TV, potremmo comprare, con una cifra molto molto molto abbordabile, una chiavetta che non è una chiavetta USB ma si assomiglia molto, uh-huh, una chiavetta HDMI, e io la collego alla porta HDMI e quella chiavetta si collega ad internet e mi fa come per magia diventare il televisore smart. Straordinario. Cioè, hai detto contenuto, costo, cioè? Ah no, 40 euro. Ah, ok. 30 okay. euro, 40 euro, okay. Sì, sì, sì. Ci sono, allora, la più famosa è Chromecast di di Google. Ci sono altri prodotti che sono abbastanza simili, e insomma uno può risolvere il problema in quel modo. All'interno di questa categoria ci potremmo mettere l'Apple TV, che non è proprio una chiavetta, ma è una specie di decoder che fa più o meno le stesse cose, e in quel caso si accede anche al contenuto di Apple con iTunes. Ci fermiamo per potremmo un attimo. Potremmo continuare per 8 ore, però abbiamo finito il tempo. Facciamo solo una piccolissima pausa, che c'è il traffico, poi ci ritroviamo. Sì. Ci sono ancora un po' di cose da dire, a tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Era un pezzo fantastico di David Bowie, in cui lui si immaginava un TV che ingoiava una ragazza. Beh, insomma, in quel periodo erano un po' vivaci e diciamo che assumevano tante sostanze che facevano immaginare loro tante cose. Sì. Velocemente, solo un WhatsApp: per favore non mandatemi messaggi vocali, perché non li posso sentire se sono in diretta. Ho uno Smart TV LG da 60 pollici acquistato nel dicembre 2014, quindi durerà fino, guarda caso, 2024. Ha scritto un ascoltatore. Bravo, mi piace. Carina questa. Sì. Allora, la app della settimana. Prima dell'app, okay. 10 secondi. Allora, a proposito di scelte, io sono del partito dei TV piatti, okay. non curvi. Lasciateli ai produttori. L'unica eccezione che si può fare è per gli OLED, perché gli OLED sono talmente belli che si può fare. Però sono usciti da poco, ma costano ancora un sacco di soldi, gli OLED piatti. Fantastico. TV piatti. Allora, l'app della settimana, cogliamo anche una notizia: Facebook, che ha un sacco di soldi, si è comprato un'app che si pronuncia Masquerade, anche se è scritta MSQRD, cioè hanno tolto le vocali, hanno tenuto Masquerade, e è un po' idiota, però ogni tanto va bene anche fare un po' di divertirsi. Questa settimana ho visto una ragazza su un autobus, su un tram, si faceva le fotografie col selfie, poi si metteva delle cose tipo Snapchat. Snapchat, esatto. E allora mi è venuto in mente, insomma, questa potrebbe essere una. Provate Masquerade, è facilissima. Tu cosa hai fa? Fatto ti fai la foto e twitta, mi sono messo lo degli sai, occhi. Il coraggio. Adesso... No, adesso ne faccio una diversa. Ciao Enrico, parliamo di cinema. Quando ho scoperto di essere una divergente, non pensavo che si sarebbe arrivati a questo. Non avrei mai immaginato che un giorno sarei stata qui. È tempo di andare al di là del muro. Momento delle nuove uscite al cinema del fine settimana. Io sento già un frammento di un trailer di un film che è molto molto atteso, quindi diamo subito la parola a Franco D'Assisti. Franco, buongiorno. Ciao Marta. Allora, Franco, cos'è? Una nuova puntata di una saga attesissima, amatissima. Assolutamente. Beh, ormai questa cosiddetta fantascienza distopica, cioè quella che immagina mondi che non vorremmo mai vivere, diciamo così, è diventata un canale, un filone molto molto importante del cinema. Stiamo parlando di Divergent, che è l'ennesimo episodio in saga di questo tipo di fantascienza. Pensate ad Hunger Games, pensate a Maze Runner, ce ne sono davvero tanti di film singoli appunto in saga. Spesso sono origine di saghe letterarie, spesso per un target adolescente, in questo caso, nel caso di Divergent, soprattutto femminile, cioè sono soprattutto le ragazze il pubblico di questo film. Questo è l'ultimo capitolo a livello letterario, a Legend, e ritroviamo i protagonisti di questo film in una Chicago, diciamo così, distrutta da una guerra, nella quale la società si è riorganizzata in caste alle quali non si accede per nascita, ma si accede per scelta quando si ha la maggiore età. Ma a quel punto c'è qualcuno che è divergent, c'è qualcuno che non ha le caratteristiche per entrare in una di queste cinque tipologie. Film, devo dire, ben svolto, tiene tiene i suoi ritmi, tiene le sue attese, regia di Robert Schwenke, fra gli attori Shailene Woodley e Theo James sono gli attori giovani, diciamo così. Poi però ci sono le facce di Naomi Watts, di Zoe Kravitz, di Bill Skarsgård a completare un pochino il cast. Devo dire che è un film che mantiene le promesse e tutto sommato si va via soddisfatto. Il suo pubblico lo soddisfa. Chi invece volesse vedere così il filmone dei grandi registi, il film da non perdere, secondo me questa settimana qualcosa c'è. Sì, qualcosa c'è, sicuramente nelle premesse, poi magari un po' meno negli esiti. Stiamo parlando di Ave Cesare, Hail Caesar, dei fratelli Coen, e quando dico fratelli Coen ovviamente si portano a casa un cast che ci vorrebbe una locandina orizzontale per sì. metterlo tutto, perché chiaramente si va da Josh Brolin a Ralph Fiennes, da George Clooney a Channing Tatum, da Scarlett Johansson a Tilda Swinton, insomma. Cioè solo non si vedono i due leocorni. Esatto, mancano solo i due leocorni, ma li stanno ingaggiando per il prossimo sì. film probabilmente, forse anche troppo devo dire però, perché è un film molto ombelicale dei fratelli Coen, devo dire, rispetto al precedente, a proposito di Davis, che mi aveva incantato perché c'era la verità della storia di questo giovane cantautore un po' spiantato che cercava di fare breccia nell'industria musicale. Qui invece è tutto montaggio, è tutto frenetico, con tanti attori che devono tutti recitare qualcosa per raccontare un'altra industria che sta molto a cuore ai Coen, quella cinematografica della grande Hollywood degli anni 50, senza però riuscire, secondo me, a mischiare bene gli ingredienti, no? È come quando fai una torta e ti vengono i grumi. È il grande momento, lo diciamo ormai da quando è uscito Checco Zalone, delle commedie italiane stanno andando bene. Io ti dico subito che con Forever Young non ho riso, non è un film che mi ha fatto tanto ridere, però mi sono divertita. Tu cosa ne pensi di Forever Young? Trovo che sia la collocazione giusta di questo film. È un film che non ha ovviamente il potenziale, anche secondo me anche registico, per avere una comicità spinta alla Zalone, piuttosto che una recitazione compatta come Perfetti Sconosciuti, che ormai sta, è un caso, che sta veramente ormai volando, è il secondo incasso dell'anno dietro quello dei Coen, dietro quello di Zalone, molto dietro ovviamente, non c'è paragone, ma è un film che potrebbe veleggiare, andare a chiudere verso i 16-17 milioni, che sarebbe un incasso clamoroso per il nostro cinema. Ecco, non siamo da nessuna di queste due parti, e forse è proprio la mancata scelta di Brizzi di stare dentro qualcosa che un po' lo penalizza, perché alla fine questo cast, anche qui tutto stelle all'italiana, con Bentivoglio, Ferilli, Teocoli, Lorenza Indovina, Luisa Ranieri, eccetera, questo cast però racconta, è vero quello che tu dici, racconta una cosa che ci sta molto a cuore, cioè questa voglia di essere sempre giovani, che si è impadronita un po' di quelli che oggi hanno fra i 40 e i 50 anni, come una sorta di piccolo demonio interiore. Di tutto questo prova a parlare, con momenti anche di divertimento delicato, Brizzi, in un film che forse appunto con uno scatto di regia in più avrebbe potuto scuotere ancora di più, però che tutto sommato rimane guardabile. Io voglio concludere con un consiglio che ti do io, fammi fare un po' di carosello, perché da giovedì 10 marzo su Sole 24 Ore il nuovo book magazine settimanale in inglese che si intitola English Actually. Sai perché lo dico a te? Perché il primo numero sarà sul cinema. Allora a correre subito. Allora giovedì prenotare, giovedì studiare, e sabato vi interrogo. Infatti facciamo un'interrogazione sabato. Noi ci sentiamo dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Alle 18 la Rosa Purpurea parleremo molto anche di Weekend, il film di cui non abbiamo parlato adesso, ma è stato un caso durante questa settimana ed è partito con alcune delle medie per copia migliori, e quindi è un film di cui si sentirà parlare parecchio. A presto Franco. Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Il sabato del villaggio. Eccoci insieme con la seconda ora del sabato del villaggio, del sabato pomeriggio di Radio 24. Saremo insieme fino alle 18. Il numero per i vostri SMS e WhatsApp è 349-238-6666. Mi raccomando, non mandatemi messaggi vocali perché non riesco a ascoltarli in tempo reale, essendo ovviamente in diretta, avendo davanti a me il tablet con il WhatsApp in studio insieme a me. E poi via Twitter il mio account è @MartaCagnola, anche quello ce l'ho davanti con un secondo tablet, e quindi insomma cerco di leggere tutto e di rispondere a tutto. Cosa succederà nella seconda ora del Sabato del Villaggio? Una seconda ora in cui ancora parleremo tanto di televisione, di ieri e di oggi, anche nei consigli dei libri, ma non solo, insomma nello spazio di Alessandra Tedesco e nella nostra pagina dei consumi con Maria Luisa Pezzali. Prima però accendiamo appunto la TV con un ritorno. Il talento, quello vero, ci regala un'emozione straordinaria. Se i protagonisti di X Factor ti hanno fatto cantare, se quelli di Masterchef ti hanno fatto sognare, vogliamo vedere grandissimi piatti. Preparati per una nuova, straordinaria avventura. Allora, torna Italia's Got Talent. Qualche giorno fa la presentazione di questo talent show che l'anno scorso è approdato a Sky, in particolare su Sky 1. Torna dal 16 marzo con una particolarità. Ne abbiamo parlato anche nel primo blocco del nostro Sabato del Villaggio, nel quale abbiamo un po' cercato di illustrare tutte le novità che abbiamo sul telecomando, perché sarà in onda anche su TV8, quindi digitale terrestre, quindi visibile a tutti su questo nuovo canale, appunto, che fa riferimento a Sky. Cosa ci sarà di nuovo in Italia's Got Talent, questo talent show? Beh, insomma, i giudici dell'edizione scorsa sono stati confermati: Claudio Bisio, Nina Zilli, Frank Matano, Luciana Littizzetto. Nuova conduttrice non più Vanessa Incontrada, ma la giovanissima Lodovica Comello. Cosa ci sarà invece di diverso per quanto riguarda gli aspiranti talenti? Beh, questo l'abbiamo chiesto direttamente a Claudio Bisio. Più eccellenze, qualche smandrapato in più anche, e meno fasce medie. Quindi questo è quello che abbiamo visto noi. Quindi ci ha, in quanto giudici, agevolato anche il lavoro, perché quelle fasce medie, cioè uno dal 6,5-7, dico per dire voti scolastici, che però viene lì con tanta buona volontà, con anche simpatia, difficilmente ti veniva da dirgli no. Per cui l'anno scorso abbiamo detto anche tanti, forse troppi sì all'inizio, per poi dover fare un imbuto improvvisamente al bootcamp prima delle semifinali. C'è stato un momento in cui da 180 siamo passati a 25 in una giornata, quindi quest'anno ci abbiamo cercato di evitarlo questo, ed è stato più facile, ripeto, avendo un po' più di eccellenze veramente forti in tutti i settori, dagli acrobati ai ballerini, che ci hanno anche stupito con cose particolari, cioè ballerini che facevano non solo quello, cose visual anche tecnologicamente molto avanzate, e poi invece anche artisti di strada come sempre, ma con grande talento, un pianista, vabbè, insomma, devo dire nomi, ho detto di non parlare di singoli, ma anche di musicalmente qualcosa di molto forte, due o tre comici grandiosi. Quindi abbiamo la finale, voi sapete, sarà in diretta, non sappiamo neanche noi come andrà, sarà il pubblico a votare, però noi sappiamo già chi sono i finalisti e devo dire ottimi tutti. Italia's Got Talent, parliamo di talento, ma invece quanto conta la fortuna? La fortuna in una carriera conta abbastanza, dico abbastanza, non al 100%, ovviamente non basta solo la fortuna, e anche se uno non ce l'avesse, magari non ha delle scorciatoie, non arriva subito, però se c'è del, secondo me, per l'esperienza che ho avuto pluridecennale, di almeno del mio mestiere parlo, come comici o attori, o chi ha talento vero magari ha perso un treno, ma ne passa sempre qualcun altro. Cosa ci fate sentire stasera? Tutto quello che vuoi. Va bene, avete 100 secondi da adesso. In bocca al lupo. 99, 98, 97, 96, 95, 94. Non sono una giraffa. Non sono una civetta. Non sono un leone. Nemmeno un colibrì. Questi erano i Camillas, che avevano fatto molto ridere a Italia's Got Talent nella scorsa edizione. Lo abbiamo detto, giudici confermati, abbiamo sentito Claudio Bisio. Cambia invece la conduttrice, non più Vanessa Incontrada, ma Lodovica Comello. Allora, i ragazzini la conosceranno perfettamente, perché lei è conosciutissima per il ruolo di Francesca nella serie televisiva argentina Violetta. Ne abbiamo parlato molto, mito delle ragazzine. Lei però è italiana, classe 1990, nata a San Daniele del Friuli, in realtà aspirante cantante e pop star, però si è concessa questa avventura nella conduzione televisiva e noi l'abbiamo incontrata. Super amata dal mondo dei giovani, adesso questa è la tua prima esperienza di televisione generalista. Che cosa vuoi portare di te stessa anche alle famiglie, alle mamme, ai papà? Spero che siano comprensivi, soprattutto perché io non ho mai condotto, però spero si capisca che ce l'ho messa tutta, che mi sono divertita e spero di divertire soprattutto. Vieni da un mondo e da un immaginario in cui la determinazione, l'applicazione, lo studio portano ai risultati. Era un po' quello il messaggio che c'era nel mondo di Violetta. Anche qui, in un certo senso, il messaggio che arriva è: chi ha talento poi può emergere. Beh, è una legge, una costante un po' della vita. E se uno si sforza, si impegna, ci crede profondamente e semina 100, qualcosa raccoglie. Ed è vero, era il messaggio forse di Violetta, ma l'ho ritrovato anche qua, è vero, mi hai fatto questa cosa. La conduttrice di Italia's Got Talent ha un aspetto molto particolare, incontra le persone. C'è ancora il sogno di andare in televisione, il sogno di diventare famosi o solo il sogno di fare qualcosa di importante? Che sensazione hai avuto dalle persone tu? C'è questo, sì, l'ultima che hai detto, secondo me, c'è il sogno, il desiderio di far vedere, di dimostrare di valere qualcosa e anche di portare in alto la propria arte, perché c'è chi arriva con cose all'improvviso che nessuno ha mai visto, un'arte marziale particolare o un modo di cantare, uno strumento che assurdo. E scopri che magari in altre realtà, in altri paesi, sono cose comunissime, diffuse, che qua sono sconosciute, quindi è proprio l'orgoglio di dire: io ti porto questa cosa che è bellissima, te la faccio vedere. I sogni sono a fior di pelle, la gente ci crede, l'emozione, tanta emozione, insomma è un ruolo, una postazione molto molto delicata, ma molto bella la mia. Il sabato del villaggio. Nel sabato pomeriggio di Radio 24 è il momento di aprire la pagina, appunto, dei libri. Piuttosto tosto per introdurre il nostro blocco dei libri sarà per il titolo di questa canzone degli Slipknot. Non lo so, la canzone si intitola Purity, sarà per questo? Lo chiediamo subito a Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, anche perché il romanzo è tosto, come la canzone. È impegnativo, intenso. Sì, il romanzo di cui si sta parlando veramente da mesi, però diciamo adesso è uscito finalmente in Italia e quindi se ne sta parlando ancora di più, ed è Purity, scritto dall'americano Jonathan Franzen, pubblicato in Italia da Einaudi, con la traduzione, sottolineiamolo sempre perché è molto importante, perché danno un po' il tono, il ritmo, insomma danno uno stile agli scrittori stranieri, tradotto da Silvia Pareschi. Allora, è un libro di cui si sta parlando molto negli Stati Uniti, è uscito diciamo a settembre ed è stato già definito il libro del 2015. Da noi in Italia è uscito ora ed è stato già definito il libro del 2016. Una logica stringente. Quindi insomma bisogna assolutamente leggerlo. Non è facile perché sono 600, guardate, le leggo, ce l'ho qua davanti, il famoso libro che si sente alla radio, 642 pagine. Beh, lettura intensa. Lettura intensa. Allora, Jonathan Franzen, scrittore americano di culto, molto amato dalle nuove generazioni, è quello che ha scritto, per intendere, Le correzioni e Libertà, fra l'altro. Questo invece è il suo quinto romanzo. Protagonista è una ragazza, Purity appunto, che si fa soprannominare Pip. Ha un rapporto conflittuale con la madre, nel senso che la madre sì, le vuole bene, però non riesce in realtà a trasmetterle il vero affetto, insomma il vero senso di protezione, e Purity decide di abbandonare così casa per due ragioni: sia perché deve pagare il debito universitario, sai che negli Stati Uniti si contrae forti debiti per mantenersi, quindi deve lavorare, sì, per ripagare il debito, sia perché vorrebbe scoprire chi è suo padre, sua madre non gliel'ha mai detto, quindi anche questo è uno dei motivi di tensione. È un romanzo, dicevo, complesso, perché anche per la struttura, perché Franzen fa parlare diverse voci narranti. Il libro è virtualmente diviso in 6 parti. La prima e l'ultima, la voce narrante è Purity, la ragazza Pip. Okay. Negli altri 2 casi invece parlano altri personaggi con i quali Purity viene in contatto. Per esempio, Purity viene, diciamo, ingaggiata da una coppia di giornalisti d'assalto, Tom e Leila, e Tom è una di queste voci narranti, oppure verrà coinvolta, diciamo, in altre avventure, chiamiamole così, da un'altra coppia, Annegret e Andreas. Andreas è un personaggio fondamentale, che è anche una delle voci narranti. Perché? Perché è un hacker che è nato nella Germania dell'Est. A che cosa serve questo personaggio per Franzen? Allora, siccome in tutto questo libro si fa una feroce critica a come i social network mettano in pubblico il tuo privato, certo, al fatto che tu non hai più privato, ed è quasi un sistema, lui lo definisce quasi da despota, quasi dittatoriale, dei social network nella nostra vita, il fatto che quest'hacker sia vissuto nella Germania dell'Est e quindi sotto il regime, certo, appunto della, certo, Germania dell'Est, il regime sovietico, eccetera eccetera, ha una valenza particolare. Trova delle analogie, trova, diciamo, delle analogie fra, diciamo, le vite degli altri per, giusto per citare un film, e il meccanismo dei social. Alessandra, chi lo consigliamo? Sicuramente a chi non vuole perdersi il libro dell'anno, ah, così, certo, a priori, o comunque vuole, certo, dire la sua, dice, mi, certo, è piaciuto o non mi è piaciuto, perché può anche non piacere. A me, per esempio, Libertà, il libro precedente, non mi aveva fatto impazzire, mi sono beccata tutte le critiche dei colleghi, diciamo, giornalisti culturali, ma come, non ti è piaciuto Libertà? No, non mi ha fatto impazzire. E quindi lo consiglio a tutti, sicuramente quelli che non vogliono perdersi il libro dell'anno, ma lo consiglio anche e soprattutto a chi ama una scrittura profonda, particolare, e l'analisi dei personaggi attraverso le loro identità, attraverso le loro vite, perché poi Franzen ci racconta sempre un po' la stessa storia, gli stessi temi, personaggi molto a disagio con se stessi. Sì, ci racconta sempre vite di famiglie, che siano quelle delle correzioni, che siano quelle di Libertà, alla fine c'è sempre una lotta per uscire da una situazione e cercare di entrarne e di entrare in un'altra. Accidenti, altri libri difficile. Altri libri di cui si parla, perché appunto almeno sappiamo di cosa si tratta, se non vogliamo buttarci nella lettura. Un altro libro tosto o qualcosa di più abbordabile? No, qualcosa assolutamente di più abbordabile. Allora, è un libro di cui si sta parlando da tante settimane, ma devo dire che il personaggio seriale di protagonista di questo libro è già iper famoso. Parliamo di 5 indagini romane per Rocco Schiavone, scritto da Antonio Manzini e pubblicato da Sellerio, ormai in classifica da parecchie settimane. Rocco Schiavone è il personaggio appunto seriale di Manzini ed è un personaggio che piace moltissimo al pubblico. Lui è un vicequestore trasteverino romano, insomma, nato in Trastevere, che viene trasferito per punizione ad Aosta. Lui odia la montagna, il freddo, la neve, tutte queste cose, quindi continua a sognare di tornare a Roma. Tra l'altro molti lo chiamano commissario e lui deve sempre sottolineare, no, guardate che sono vicequestore. È il classico personaggio burbero, non violento, però insomma un po' rozzo, un po' brutale, aggressivo. Un gran classico anche sì, quello. Insomma, nello stesso tempo però ha una certa umanità e forse piace proprio per questo, diciamo, che non nasconde i propri difetti e non disdegna anche qualche affaruccio poco lecito, nel senso che la mattina appena si sveglia fuma e non una sigaretta, mettiamola così, cerchiamo di essere politically correct, non ha scrupoli né con i buoni né con i cattivi, insomma è cosa carina che nei libri fa la classifica delle rotture di, lo dico in italiano, di scatole, lui usa un altro termine. Che inizia con la C. Esattamente, e in vetta, diciamo, a questa classifica c'è proprio il caso da risolvere, l'omicidio, cioè dice porca miseria, fra le rotture di scatole ho proprio un altro caso da affrontare. Un personaggio sicuramente ironico e strafottente. Questo 5 indagini romane per Rocco Schiavone è una sorta di prequel, perché sono 5 racconti che erano già stati pubblicati in alcune antologie Sellerio, sì, e parla ancora del periodo romano di Rocco Schiavone prima di essere trasferito ad Aosta. Invece i romanzi, diciamo, culto sono Pista Nera, La Costola di Adamo, Non è stagione, Era di Maggio. Io, avendo letto solo due di questi libri, ho chiesto al classico amico fan di... ho detto, ma allora l'amico Giuseppe, non svegliamo il cognome, ma è un fan accanito di Rocco Schiavone Manzini, dico, tu quale preferisci? Lui mi ha dato una risposta molto, come dire, quasi democristiana. Mi ha detto, sono tutti belli, e soprattutto uno è più bello dell'altro, cioè nel senso che con il tempo sta migliorando, migliora sempre di più. Ma è già pronto per la TV? Ecco, tra l'altro vedo, state parlando di televisione ed è si sta proprio girando, da vedi? Poco sono iniziate le riprese della serie TV su Rocco Schiavone, insomma sulle avventure, certo, di Rocco Schiavone. E chi sarà lui? Chi sarà Rocco Schiavone? Marco Giallini. Perfetto. Che naturalmente tu conosci. Insomma, io sono andata a vedere la faccia e ho capito che è quello che fa il chirurgo plastico in Perfetti Sconosciuti. Fantastico, Marco Giallini. E andrà in onda sulla Rai questa molto, serie TV. Molto bene. Beh, abbiamo parlato tanto di televisione, continuiamo allora a parlare di televisione anche nel blocco dei libri. Hai ancora qualche consiglio? E vabbè, visto che parlate di televisione, non potevo esimermi dal consigliarti. Un consiglio televisivo? Sì, un consiglio televisivo. Un libro sulle serie TV. Allora, ne sono stati scritti tanti, lo sappiamo, eccetera, eccetera, ma questo mi è piaciuto perché l'ho trovato particolarmente originale, ma soprattutto simpatico. Il titolo è Il mio primo dizionario delle serie TV cult. L'ha pubblicato Becco Giallo, che è una casa editrice che in genere pubblica graphic novel, per intenderci, o comunque libri illustrati. Ed è stato scritto da Matteo Marino e Claudio Gotti, e anche qui ci sono delle bellissime illustrazioni di Daniel Quello, spero che si legga così perché non lo conosco questo illustratore, se fosse spagnolo sarebbe Quello, però insomma siamo qua a ricevere eventuali critiche. Che cosa mi è piaciuto di questo libro? Allora, fra le infinite serie TV ne scelgono 33, diciamo, loro considerano da Twin Peaks ai giorni nostri, perché sì, Twin Peaks è stata la prima vera serie TV, ma tu ne capisci meglio di me, quindi, e hanno fatto delle schede con delle voci particolari, chi sono i personaggi, la trama, ma le due categorie che mi hanno fatto impazzire sono Marchio e Salto dello Squalo. Vabbè, ma gli appassionati di serie sono appassionati anche di Salto dello Squalo. Sai di cosa, ma io sono rimasta stupita da questa cosa perché non sapevo che esistesse per le il Salto dello Squalo. Partiamo dal Salto dello Squalo, cioè è il momento in cui una serie TV, cioè i creatori di una serie TV diventano, cioè non sanno più che cosa andare a pescare, e quindi si inventano una parte della trama assolutamente assurda e che fa insomma un pochino arrabbiare tutto anche gli spettatori. Tutto nacque perché in una puntata di Happy Days Fonzi, che faceva surf, saltò uno squalo in maniera totalmente non plausibile. Vabbè, quindi il salto dello squalo. Scusa, in Dallas non risorgeva Bobby Ewing? Ma certo, ecco, quello è il salto dello squalo. Poi allora, davanti Friends c'è un salto dello squalo anche in Friends. Sì, anche in Friends, perché dice che c'è un generale calo qualitativo nelle ultime tre stagioni. Diciamo dal matrimonio di Monica e Chandler in poi, e poi non è stata trattata bene la faccenda fra Rachel e Joey, quella specie di innamoramento, si incontrano vero. Poi sì, forse ti voglio sposare, no, però lei torna con Ross, insomma lì gli sceneggiatori si sono un po' ammosciati e hanno fatto un po' ammosciare anche gli spettatori. E l'altra categoria invece è il marchio, cioè cos'è che rende di una serie TV la cosa più particolare. Nel caso di Friends è il fatto che negli anni precedenti c'erano state molte serie TV al cui centro c'erano delle famiglie. Certo. Invece per la prima volta c'è la tendenza con Friends a mettere in primo piano il gruppo di amici, cioè la famiglia di elezione, quella che tu ti scegli. Un sacco di consigli. L'ultimo consiglio vorrei che fosse quello del Cacciatore di Libri. Cacciatore di Libri non potete perderlo assolutamente, perché andrà in onda stasera alle 22. Vi dico già chi è la protagonista, Chiara Gamberale, con il romanzo del momento che si intitola Adesso, se vi siete persi la puntata di questa mattina che è andata in onda alle 6:30. Comunque avete sempre il podcast, quindi non scappate, non sfuggite. Siete dormiti alle 6:30? Siete fuori alle 22? Vi beccate il podcast. Comunque Fonzi faceva sci nautico, non faceva surf, me lo sono ricordato adesso. Alessandra, al prossimo sabato! Ciao Marta! I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme per la seconda mezz'ora della seconda ora del sabato del villaggio. Qualcuno ci ha scritto chiedendoci se abbiamo usato gli Slipknot perché il cantante, il frontman Corey Taylor, è anche uno scrittore. No, al momento non ci ho pensato, però effettivamente lui ha scritto anche un po' di libri, uno anche l'anno scorso. È vero, è vero. Corey Taylor è anche scrittore. Adesso però abbiamo parlato sempre un po' di televisione nel nostro sabato del villaggio di oggi. Chissà se lo facciamo anche nella nostra pagina dei consumi. Decido io quali prodotti lasciare entrare nei nostri negozi, nelle case della gente, 24 ore al giorno, per i nostri stimati clienti. Scelgo con molta attenzione e altrettanta prudenza. Passo la maggior parte della mia giornata a rifiutare proposte che arrivano da persone come te. Sai cosa significa QVC, Joy? No, non lo so. Qualità, valore, convenienza. Io vendo prodotti convenienti, ma non prodotti da poco. E il tuo mocio è di plastica e ha un aspetto strano. Era un frammento di un film che io ho amato molto, che si intitolava Joy, un film in cui Jennifer Lawrence interpretava la storia vera di una donna che ha svoltato la sua vita e anche fatto svoltare quella di milioni di casalinghe inventandosi il mocio. Ma perché abbiamo scelto proprio questa clip in una giornata del sabato del villaggio che stiamo dedicando un po' così anche alla televisione? Cosa c'entra Joy con la televisione e cosa c'entra con Maria Luisa Pezzali? Lo chiediamo subito a lei. Buongiorno Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Beh, io ho fatto i compiti perché tu mi hai dato il tema della puntata. Sì, io ho suggerito, ho detto questa settimana vorrei parlare un po' di televisione. E io l'ho declinata subito in chiave consumi e quindi mi è immediatamente venuto in mente QVC, citata appunto nella clip, quella che ormai è diventato un vero e proprio fenomeno anche di costume, anche in Italia. QVC è leader mondiale per lo shopping televisivo, il secondo canale americano per dimensioni, opera anche in Inghilterra, Germania, Giappone, Francia, Cina e Italia, appunto, dove è sbarcato nel 2010. QVC Italia è guidata da Paolo Penati, che dovremmo avere in collegamento. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buongiorno. Ovviamente a me viene subito da chiedere se lei è come Bradley Cooper in Joy, però magari non è proprio adatta come prima domanda. L'ha visto il film? Ho visto il film, sì, molto piaciuto, molto, direi molto rispondente alla realtà, un po' romanzata in certi personaggi, ma assolutamente rispondente alla realtà. Beh, allora, dicevamo, ormai dal 2010 in Italia, come riassumiamo un po' questi anni che sono seguiti allo sbarco? Ma allora, partiti nel 2010 con una conoscenza da parte del grande pubblico molto limitata, perché il canale appunto non era presente e soprattutto il mondo della vendita televisiva direi che non era stato caratterizzato nel precedente passato da esempi particolarmente vincenti o affidabili. Quindi abbiamo dovuto inventarci un po' il nostro marchio, inventare un po' il nostro modo e farlo conoscere a quante più clienti e spettatrici possibili. Beh, voi puntate molto sull'intrattenimento, i vostri presenter, si dice così, no? Assolutamente. Ok, diventano un po' i compagni della mattinata, del pomeriggio, insomma, a seconda della vostra fascia di pubblico. Sì, diventano dei compagni, degli amici che fanno compagnia alle clienti durante tutto l'arco della giornata, di fatto, perché noi trasmettiamo in diretta dalle 8 di mattina alla 1 di notte, quindi non abbiamo contenuti registrati e tutto quanto in diretta, e pian piano diventano una presenza costante nella vita delle nostre clienti. E cerchiamo di far sì che questa presenza non sia una presenza invasiva. Io sono curiosa di sapere un po' com'è il vostro pubblico. Io le confesso, io ho una cugina, lo stavo raccontando prima a Maria Luisa, che è una vostra fan. Alessandra è una fan scatenata. Non so, Alessandra. Sì, lei magari stira e guarda QVC, cucina, guarda QVC, poi mi manda i messaggi, mi dice: ma accendi, cambia, stanno facendo vedere questo e quest'altro. Qual è il vostro pubblico? Beh, ma anch'io faccio coming out, io indugio molto volentieri su QVC. Allora, Premesso che avete tutto il mio apprezzamento per questo approccio, direi che il pubblico è un pubblico femminile naturalmente, principalmente perché la responsabile degli acquisti è femminile, è la donna di casa, e poi il fatto appunto che siamo una presenza non particolarmente invadente, quindi si può veramente tenere la televisione accesa per diverse ore. Il tono della conversazione, di quanto avviene in televisione, è sempre molto tranquillo, molto rilassato, e poi raccontiamo storie, diciamo che è un po' quello che viene dopo la clip che avete presentato prima, è proprio la capacità di Joy di raccontare un prodotto, di far capire da dove arriva, di mostrare come deve essere utilizzato e in qualche modo di trasmettere i vantaggi che questo prodotto porta nella vita di tutti i giorni. Abbiamo parlato con Andrea Biondi del Sole 24 Ore delle posizioni sul telecomando 32, vero? 32, sì. Fantastico, io sono contenta di aver fatto questo approfondimento, grazie a Maria Luisa su questo canale che mi incuriosisce molto. Maria Luisa, arrivederci. Arrivederci a voi, grazie ancora. Grazie, grazie mille. Bella questa cosa di QVC, anche perché poi quando è nato hanno assunto un sacco di persone, è stato un bel arrivo anche dal punto di vista. Un evento, sì. Lo sbarco in Italia, assolutamente. Beh, io poi insomma sono andata avanti col mio compitino Marta, ho cercato altre notizie che mettessero insieme questi due elementi, TV e consumi dunque. Bene, notizia proprio di qualche giorno fa, Amazon ha appena lanciato i talk show di moda, Style Code Live è uno show in streaming dedicato a consigli sul mondo della moda e della bellezza. Le puntate vengono trasmesse dal sito di Amazon, del colosso dell'e-commerce, tutti i giorni alle 21 ora americana. Ospiti attrici, blogger, star di YouTube. Naturalmente l'obiettivo è quello di spostare gli spettatori alla sezione acquisti del sito. Certo. Infatti sì. Ci sono poi tutte le funzioni interattive per vedere la lista dei prodotti che vengono citati e cliccare sul magico tastino buy, insomma quello che tutti gli e-tailer amano profondamente. Tremendo, dovrei guardarlo senza accesso alla carta di credito. Esatto. È il momento di collegarci con Cristina Lazzati, ce l'abbiamo Cristina? Buon pomeriggio. Cristina, le tue dritte di oggi, che cosa ci hai portato per questo sabato? Allora, se Maria Luisa vi ha portato, come dire, nel futuro delle vendite, io vi porto nella storia delle vendite, mm-hmm. o meglio ancora, le vendite a casa. Vi ricordate la Tupperware, no? Ah, certo. Assolutamente. I barattoli venduti a domicilio. Ecco, pensate che secondo i dati Univendita, che racchiude tutto questo mondo di vendite a domicilio, le vendite a domicilio in Italia sono aumentate del 7,5% nel 2014 e sono 6 anni che ogni anno aumentano, il che vuol dire che evidentemente si sta riscoprendo questo mondo e sta andando decisamente meglio di tutto l'altro mondo delle vendite, che invece insomma traballa sempre un po', soprattutto negli ultimi anni, quelli contraddistinti un po' dalla crisi. Le vendite di questo genere, che a me personalmente piacciono di più, sono quelle che prevedono una reunion, come la chiamano gli addetti ai lavori, diciamo che le amiche che invitano altre amiche e presentano dei prodotti cucinando, facendo trattamenti di bellezza e quant'altro, ma andiamo un po' con ordine. Abbiamo citato Tupperware, ve la ricordate, ma c'è ancora tuttora, e anzi in questo periodo mi sono informata presso amiche che sono, come dire, un po' patite di questi esercizi. Lanciano questo nuovo contenitore di riso, per cui se tu vai alla presentazione Tupperware vedrai un contenitore che è messo in microonde e ti cucina il riso aggiungendosi semplicemente dell'acqua, che trovo molto affascinante la cosa. Poi ci sono altro classico, Stay Home, e qui mi hanno detto che invece Stay Home si muove sulla pulizia a casa e la cura persone. La pulizia a casa, a seconda della stagione in cui ospiti questa reunion, avrà l'obiettivo della pulizia armadi dopo l'inverno oppure quella dell'apertura degli armadi dopo l'estate, quindi tutti i prodotti che sono correlati a quello che sono maglioni piuttosto che conservare, smacchiare e quant'altro, anche qui grandi dimostrazioni. Poi c'è Bimby della Vorwerk, certo, e lì si funziona in questo modo: la persona del Bimby si porta il Bimby, fa la dimostrazione, chi riceverà prima tipo il libro di ricette sullo sfoglio online decide quali ricette vorrebbe preparare, compra gli ingredienti, invita le amiche, la persona col bimbi ti fa vedere come cucinare dall'antipasto al dolce con bimbi, con le varie preparazioni, vapore, non vapore, quant'altro. Io non ho il bimbi, ma lo desidero fortissimamente. Io ce l'ho. Che grandi cuoche, che grandi cuoche, fantastico. E poi andiamo invece sul benessere. E qui invece si tratta di organizzare sempre, invitando le amiche, avendo la persona che ti racconta come fare la pulizia del viso, piuttosto che lo scrub, e qui diventa quasi una piccola spa casalinga in cui sicuramente tra amiche ci si diverte parecchio, fino ad arrivare a una classicissima Avon, che anche quella c'è. Su questa sono è quella su cui sono più preparata, sono più preparata su Avon. E lì sono le sedute trucco, mi confermi? Sì, sono tentazioni irresistibili, perché poi quando si organizza il party e si fanno le dimostrazioni si casca sempre in tentazione. Ecco, a proposito di tentazioni, chiudiamo con gli ultimi tre, che sono un pochino meno storici, uh-huh, o forse ci sono sempre stati e non se ne parlava granché, che sono Soft Paris, con i suoi soft party, e l'ambasciatrice di felicità, la valigia rossa e Tupper Sex. Adesso, allora ho capito cos'è la felicità dell'ambasciatrice. Ok. In questo caso sono una francese, un'americana e spagnola, quindi insomma un po' come la barzelletta, e ognuno a modo suo sono delle reunion, anche in questo caso quasi sempre al femminile, in cui ci sono l'ambasciatrice della felicità per Soft Paris o analoghe, che con biancheria intima, creme per il corpo, poi se uno vuole arrivare ci sono anche tutti i sex toys, in cui, come dire, in qualche maniera uno capisce come funzionano e non li ha visti solo in televisione. Io devo dire che se c'è qualche ambasciatrice della felicità che mi vuole invitare a una reunion, io mi diverto, io mi offro. Sì, effettivamente pare che comunque con qualcosina vai sempre via, cioè sono... magari il tupper non è detto che lo compri, però qui sembra che, da quello che ho visto in giro, la vendita va sempre a buon fine. Ecco, il tasso, la percentuale di successo è alta, insomma, quindi... Grazie Cristina Lazzati per essere stata con noi, al prossimo sabato, Cristina. Grazie a voi e buon pomeriggio di nuovo a tutti. Grazie anche a Maria Luisa Pezzali, l'appuntamento con te con Essere Avere. Domani alle 22. Ciao, a presto. Il sabato del villaggio. Beh, fatemi subito salutare Chiara Contufarci, che ha scritto su Twitter al mio account @MartaCagnola, che appunto lavora per QVC e dice che è anche una fan di Radio 24. Grazie di averci salutato e buon lavoro. Tra l'altro invece voglio chiarire a Ulisse, che ci scrive via SMS al 349-238-6666, che non abbiamo nessun interesse a parlare di un'azienda o di un'altra, anche perché parliamo di consumi ogni settimana. Questa è la 27esima puntata del Sabato del Villaggio solo per questo secondo anno, quindi immaginati quante puntate, di quante aziende abbiamo potuto parlare nella pagina dei consumi, quindi non c'è assolutamente alcun interesse in nessun modo. Invece no, c'è un po' di interesse nell'ultimo blocco di questo Sabato del Villaggio, perché l'esperto che stiamo per chiamare, sapete, è un nostro amico, noi spesso parliamo con lui, ma vogliamo fare allo stesso tempo, in questa puntata in cui parliamo di televisione, un salto nel passato e un aggiornamento nel presente. Chissà se capite al volo quello di cui stiamo parlando. Allora, per la prima volta mi pare, Giuliana Longari, o forse è successo una volta, è la prima a dover rispondere. Allora, quale busta sceglie? La 1, la 2 o la 3? La numero 3. La numero 3. Busta numero 3 per la signora Giuliana Longari. Allora, il prossimo concorrente si chiama Tommaso Di Nunno e viene da Canosa di Puglia. Si presenta sulla zoologia, professor Balbi, zoologia, sì, sì. Esclusi pesci. Allora, probabilmente avete riconosciuto Mike Bongiorno, sicuramente avete riconosciuto Mike Bongiorno, probabilmente avete riconosciuto Mike Bongiorno nel Rischia Tutto e avete riconosciuto Fabio Fazio nel Quasi Quasi Rischia Tutto, che è la fascia quotidiana dei casting, cioè delle selezioni del nuovo Rischia Tutto, che stiamo ormai aspettando da un sacco di tempo, che arriverà con un paio di speciali ad aprile su Rai 1 e poi arriverà in autunno su Rai 3, se questa è la situazione, se sono ben informata. Ma ha scritto un bel libro, Rischia tutto, storia, leggende e protagonisti del programma che ha cambiato la televisione. Il nostro super esperto di Sanremo, di Eurovision, di televisione, Eddie Anselmi, e ce l'abbiamo in collegamento. Ciao Eddie! Ciao Marta, ciao le ascoltatrici e gli ascoltatori del Sabato del Villaggio, buon sabato. Eddie, fammi citare anche Pino Frisoli, si dice, si pronuncia così, l'accento è giusto, Pino Frisoli? Pino Frisoli, l'accento è giusto, Pino è un accento sdrucciolo, e è stato un libro scritto, una partitura scritta a quattro mani, e quindi non c'è pezzo del lavoro mio che non abbia fatto anche lui e viceversa. Insomma, abbiamo deciso di non separarci i capitoli e di attribuirci un po' come Lennon e McCartney, bella insieme, poi dopo uno ha scritto uno, uno ha scritto un altro. Eddie, questa striscia quotidiana del quasi quasi rischia tutto sta avendo un grande successo. Io devo dire che quando mi hanno detto ci sarà una striscia quotidiana di casting del rischia tutto, ho detto vabbè, ma boh. Poi alle 20.30 su Rai 3 sta andando molto molto bene. Ma secondo te, e io cito dal tuo libro il fatto che i concorrenti erano persone educate e colte, lo scrive la signora Daniela Bongiorno nell'introduzione, è per questo che ha successo? Perché si ritorna a questo tipo di concorrenti, a questo tipo di quiz, l'educazione e la cultura? Ma magari, rischia tutto, fu un eccezionale paradigma di quello che era e dovrebbe essere il servizio pubblico, perché riusciva a informare, era un programma di divulgazione, i concorrenti si preparavano su materie e su una cultura maggiore del pubblico da caso, non erano materie scientifiche o domande e risposte inintellegibili. Le persone che da casa avevano fatto magari qualche studio, anche la stessa scuola dell'obbligo, avevano una riminiscenza lontana magari di delle domande, o gli animali, c'erano sì qualche domanda tecnica, e era proprio questo a farli interessare. Da casa si imparava guardando Rischia Tutto, Rischia Tutto appunto istruiva, ma anche informava, perché era davvero una grandissima messa in scena, mise en scène, in questo senso, delle doti personali, dell'amore per il tempo libero, delle passioni, certo, di questi tanti concorrenti che di fatto, non sapendo cantare o ballare o fare le imitazioni, venivano misurati sulle cose che sapevano. Quindi tu vedevi gli operai che tornavano dal lavoro e studiavano, e quindi lui diceva: sono autodidatta, ho fatto la terza media, il concorrente, però mi sono preparato sull'opera lirica del Settecento. È un wishful thinking che adesso la gente non voglia andare a cantare in televisione, ma così sfoggiare la propria competenza su una materia. Tra l'altro, un'altra cosa divertente che ho scoperto è che il Rischia Tutto era registrato, ma nessun giornalista ha mai svelato prima chi poteva aver vinto una puntata, cioè hanno tutti rispettato la consegna del segreto. Fantascienza in un mondo in cui non ci dicono neanche 5 minuti prima quando qualcuno vince il Festival di Sanremo, perché qualcuno poi lo svela già su Twitter invece di mantenere il segreto. Allora il pubblico in sala non aveva Twitter, certo. E i giornalisti giornalisti nemmeno. Adesso il problema di Sanremo, dei blog, insomma, che non è che i giornalisti hanno Twitter e sono seri, e che magari c'è anche la persona che sta lì per un altro lavoro, c'è uno che porta le pizze, faccio finta, certo, dice l'amico, sì. Ormai Twitter è una cosa che non è più esclusivo, è di tutti e per tutti, di certe, ormai gli embarghi sono molto difficili. Allora qualcuno qualche volta nel giornale la mattina stessa si poteva capire che il giornalista sapeva, attenzione a questo qua, sarà molto forte, e allora talvolta vinceva, però a volte concorrente molto forte veniva presentato e poi perdeva l'ultima domanda, quindi c'era chi lanciava messaggi, ma nessuno rompe mai l'embargo. Che bello, io non vedo l'ora di vederlo questo Rischia Tutto. Ti chiedo proprio solo un flash: secondo te avrà successo questo ritornare alla competenza? Flash come la programma di Mike, sì. Io amerei tanto. Poi, sai, non si può paragonare l'Italia di 45 anni fa con quella di adesso. Certo, certo. In particolare non si può paragonare il mondo televisivo. Diciamo che però se i personaggi, non tanto la competenza, quanto i personaggi saranno quelli giusti, perché la grande cosa del Rischia Tutto era che non c'era un casting. Il casting era chi rispondeva meglio alle domande andava. Certo, andava. poi gli autori dicevano, ah, allora loro cercavano di mettere insieme le persone più curiose, più simpatiche, ma il primo screening non era il curioso ignorante, era chi aveva un... veniva selezionato che aveva un buon livello di cultura generale. Allora, quello... Eddie, però siccome tu sicuramente vincerai se ti presenti con la storia del Festival di Sanremo, io ho trovato una materia alternativa per sfidarti, perché su quella non posso batterti. Io ho deciso che mi presento ai provini con la storia di Carosello, così proviamo bellissimo a vedere. Fantastico, dai, io non vedo l'ora che vada in onda. Eddie, rischia tutto, storia, leggende, protagonisti del programma che ha cambiato la televisione, con questa preziosa testimonianza di Daniela Bongiorno, Eddie Anselmi, Pino Frisoli. Eddie, ci risentiamo presto, perché invece la prossima volta ti chiameremo per l'Eurovision, perché anche quello si sta per avvicinare, e quindi presto torniamo a chiamarti. Non ti dico dove sarò domani sera. Allegria! Allegria, allegria, ci lascia con questa curiosità. Grazie Eddie Anselmi, noi diamo la linea al Giornale Radio delle 17, poi torniamo ancora insieme perché abbiamo ancora la terza ora del Sabato del Villaggio, che è quella di RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Vi dico subito che ci sarà un ampio spazio dedicato alla politica, ma anche uno speciale con un ospite straordinario, un grandissimo personaggio della musica, ma non solo, un progetto straordinario. A tra poco, dopo il Giornale Radio delle 17, staremo ancora insieme con il Sabato del Villaggio.